Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, adesso la classifica parla decisamente più chiaro. In testa, dove è rimasta soltanto la Juve nella scia dell'Inter, in coda dove cinque squadre sono abbastanza nettamente staccate dal resto del gruppo, dai 14 punti del Bologna in giù, Lecce 13, Torino, Regina 12, Chievo 9, si giocheranno le tre piazze, cioè si giocheranno le tre retrocessioni e le due salvezze. È difficile che chi è da quota 19 in su, come il Siena, il Cagliari e il Catania, possano essere coinvolte, perlomeno visto adesso, ma così si arriverà a Natale, così come alla sosta natalizia si arriverà con l'Inter capolista, ma ripeto, con la Juventus autorevolmente candidata, se non altro al ruolo di, se non altro al ruolo di prima inseguitrice. Gli spunti di oggi sono numerosissimi. Juventus-Milan, l'andamento di Juventus-Milan ha lasciato ovviamente spazio a commenti di ogni genere, molto variato per l'appunto, perché può darsi ci sia stato forse un eccesso di trionfalismo da una parte, considerato lo scarso valore dell'avversario, però è indubbio che qualcosa di chiaro questa partita l'ha detto. Per esempio, tra le tante che provo ad anticipare, poi ne parleremo insieme come ogni lunedì, per esempio che la politica dei giovani anziché quella delle figurine forse è leggermente preferibile, perché mi pare che nel confronto diretto si sia visto che avere per esempio due ragazzi come Marchisio e De Ceglie che corrono e che hanno l'anima di chi è cresciuto in un vivaio, forse sono preferibili agli Emerson e ad altri che quell'anima è ipato, che quell'anima non ce l'hanno. Poi ci sono operazioni assolutamente incomprensibili come quella di Shevchenko, ma insomma credo che il campo ieri sera abbia parlato abbastanza chiaro e abbia dato anche elementi di valutazione su quello che è stato fatto prima da parte delle società e su quello che si proietterà nel futuro. Proprio questa differenza, credo, di programmazione, dovuta sempre anche al fatto, questo non va dimenticato, che la Juventus ha avuto 2 anni fa quella parentesi in Serie B che è stata della serie non tutti i mali vengono per nuocere, proprio quella che ha consentito da una parte, costretto prima, ma anche consentito poi un rinnovamento dei ranghi in profondità, veramente in profondità. Qualche numero della giornata. Beh, intanto la classifica comparata, come sempre, rispetto alla stagione scorsa. Restano Genoa e Cagliari le squadre che hanno fatto meglio, con 10 punti in più, e poi rimane il Milan insieme al Napoli a più 8 a inseguire. Ripeto, nella classifica delle squadre che hanno migliorato rispetto ad una stagione fa, la Roma è sempre in fondo a meno 10 nonostante continui a vincere, l'Udinese è scesa a meno 6, il Torino a meno 4, la Sampdoria a meno 2. I primi interventi di giornata all'800240024, dopo aver ascoltato le disamine principali sulla partita di ieri sera e non soltanto su quella. Allora cominciamo da Ranieri. Sapevamo che il Milan partiva forte, perché anche l'anno scorso, quando avevamo vinto 3-2, i primi 10 minuti erano stati più di marca rossonera che bianconera. Poi dopo il gol di Del Piero, anche, sto parlando dell'anno scorso, la Juventus si era calata bene nella parte, per cui i primi 10 minuti oggi abbiamo sofferto molto, non riuscivamo a trovare le giuste misure nei passaggi, nel venirne fuori. Il Milan ha continuato, però ero fiducioso perché sapevo che venendo loro avanti saremmo stati noi molto bravi a gestire la palla nelle ripartenze. La qualità del centrocampo del Milan è strepitosa, per cui noi abbiamo una buona qualità, però abbiamo molta molta resistenza, forza fisica, per cui o vieni dietro a noi o è difficile, insomma, correrci dietro. Vedere Maldini così in difficoltà, scrive Lorenzo da Milano, è triste, ma non poteva lasciare da campione del mondo. Beh, la domanda in generale ci sta, e come, anzi io la condivido in pieno. Riferito a ieri sera, non mi è sembrato particolarmente triste Maldini, perché anzi mi è sembrato proprio l'emblema del capitano coraggioso, dell'ultimo ad arrendersi, della chioccia intorno a cui, se ci fossero pulcini anziché rottami, adesso esagero un po', insomma, diciamo, se ci fossero pulcini anziché anziani, io credo che il coagulo lo potrebbe ancora fare. E proprio ieri sera lo si è visto. Io credo che semmai Se mai un po' di pena la facesse Shevchenko, sinceramente, per come era impresentabile, la facesse il patolo il Ronaldinho del secondo tempo, non Maldini, non certamente Maldini, né sul piano dell'orgoglio né tantomeno su quello della qualità. Poi Aldo da Milano comincia a introdurre altri temi, che ne penserebbe di partire con 7 turni per Vucinic e poi vediamo come va. Ma no, 7 turni direi di no. Io 7 turni li darei a Rivalta, quello dell'Atalanta, che sto aspettando la prognosi di Palladino, perché è una delle entrate più violente e più, direi, anche vigliacche che ho visto da anni a questa parte. Non la più, ma una delle più sicuro. Quella di Vucinic è un altro gradino, no? Disceso nella scala del buon gusto. Poi immagino che, dato che per l'appunto è come nel doping, no? Cioè, nel doping è ovvio che l'antidoping deve sempre correre dietro a nuovi farmaci, e qui è la stessa cosa, cioè i regolamenti devono sempre correre dietro a nuove idiozie che i calciatori si inventano. Immagino che da ora in poi ci sarà una punizione specifica per chi, anziché la maglietta, che vale, come sappiamo, il cartellino giallo, si leva addirittura i pantaloncini. Ma fino a ieri, sinceramente, credo che a nessun legislatore calcistico sarebbe mai venuto in mente che c'era uno che per aver segnato un gol di una partita normale, tra l'altro, non della finale di chissà che, si sarebbe levato i pantaloncini. Sentiamo la stessa partita di ieri sera, vista dall'angolazione invece di Carlo Ancelotti. Siamo stati troppo vulnerabili dietro, abbiamo concesso troppo, nel senso che hanno avuto troppe opportunità per poter concludere, per darci fastidio. Credo che quando siamo dove ha mancato il Milan oggi è stata nella fase difensiva che ha regalato troppo, insomma abbiamo preso gol con troppa facilità. Credo che la Juve ha giocato sui nostri errori, il primo tempo soprattutto, i problemi che ci ha creato sono legati al recupero della palla e a trovarci sbilanciati. Credo che tutto sommato nella partita abbiamo attaccato discretamente, quello che non si è riusciti a fare bene è stata una buona copertura difensiva, tant'è che 4 gol sono effettivamente troppi. Mi pare abbastanza vero quello che Ancelotti dice, perché per la prima parte, nella prima parte della gara, certamente la superiorità l'ha avuta il Milan, il pallino era in sua mano, anche perché si giocava sotto ritmo e la Juventus non era ancora riuscita a far valere la sua velocità. Prevaleva, finché avevano fiato i vecchietti del Milan, prevaleva diciamo pure il talento, ma il talento rallentato, cioè il gioco manovrato. Poi il Milan è stato bravo a trovare il pareggio, tra l'altro sull'unico lampo di Ronaldinho e sull'unico scatto tempestivo di Pato. Il pareggio se l'era già mangiato in precedenza Ambrosini, sbagliando un gol assolutamente incredibile. Ieri, se ci avete fatto caso dai filmati, due giocatori hanno commesso due errori pressoché identici nello stesso punto dell'area di rigore, sono Ambrosini e Jeddah, quello del Cagliari, che hanno sbagliato due gol praticamente impossibili da sbagliare. Poi tutti e due hanno poi trovato il gol. Jeddah con un colpo d'astuzia, Ambrosini con un colpo fortunoso su deviazione. Insomma, una curiosità in più. Sentiamo, prima che Juventus e Milan si giocassero il loro spareggio, l'Inter aveva comunque avuto un pomeriggio assai più complicato del previsto, risolto poi da Ibrahimovic. Ci sono stati almeno due gol di rara bellezza a San Siro, direi anche tre, perché era bello il gol di Maxwell, era magnifico quello di Stankovic, sia per la costruzione dell'esecuzione che per la costruzione dell'azione che per l'esecuzione, impareggiabile o impagabile l'ultimo di Ibrahimovic. Ma in mezzo a tutte queste gemme ci sono state anche molti passaggi a vuoto, che insomma, no, non sono abituali quando gioca la prima della classe contro l'ultima, tantomeno se la prima della classe si è già portata sul 2-0. Allora sentirei il commento alla partita, anziché il commento di Mourinho su Ibrahimovic. Qualche volta un giocatore come lui è questo tipo di giocatore che da solo può soluzionare, che da solo crea, e che quando la squadra non sta producendo un calcio di qualità deve essere lui con azione individuale per trovare le soluzioni. Oggi per noi sono soddisfatto con questo, perché la squadra sotto la pressione di un risultato super negativo, perché non è solo il 2-2, è il 2-2 dopo un 2-0. La squadra ha avuto questa coraggio di giocare come ha giocato negli ultimi 20 minuti. Lui ha segnato due gol di grandissima qualità, dove lui solo tocca nella palla una volta. Tutto l'altro lavoro è stato un lavoro collettivo. Io credo che sia lecito provare a porsi una domanda, che è questa. Il Milan ieri sera ha giocato senza uomini assolutamente determinanti. Tra l'altro Gattuso non ce l'avrà per il resto della stagione. Kakà potrebbe avere un problema abbastanza serio e rischia un intervento chirurgico. Ma mancavano questi. Nesta è un'assenza cronica e sono certamente pedine chiave. La Juventus non scherzava, perché non dimentichiamo che da due mesi sta giocando in porta Manninger, che non è esattamente il gemello di Buffon. Mancava Camoranesi, mancava le Grottaglie, che è uno dei due centrali difensivi. Insomma, qualcuno mancava anche alla Juve. Io credo che la superiorità dell'Inter complessiva sino ad ora ci stia tutta e quei sei punti di distacco abbiano un senso, a patto che Ibrahimovic non abbia mai un raffreddore. Ecco, questa mi sembra un po' una riflessione che ci può stare guardando a come sono state queste prime 16 giornate rispettivamente per queste tre squadre. Cominciamo con gli interventi in diretta. Oreste da Caserta, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Dica. Volevo fare un intervento sulla falsa riga del suo inizio di programma. Lei aveva elogiato un po' i nuovi giovani talenti, tra virgolette, juventini. Non è il caso forse che la Juve prenda in seria considerazione l'ipotesi di arricchire il proprio organico con un portiere di sicuro valore, qual è il giovanissimo portiere della Sampdoria, e cedere alle lusinghe del Manchester City per Buffon, così perché da far cassa per ulteriormente rinforzare la squadra? No, proprio no. Io credo che chi ha Buffon se lo tiene. Se per caso, adesso provo a seguire il suo ragionamento, se per caso Buffon dovesse avere qualche problemino di salute, cioè se vedessimo invece che la Juventus, ecco, mettiamola così, dovesse un giorno o l'altro impazzire e cedere a queste lusinghe, probabilmente non sarebbe impazzita, ma saprebbe qualcosina di più sul conto della salute atletica, intendiamoci, di futura di Buffon, che non sarebbe il caso di far sapere agli eventuali compratori. Ma insomma, credo che se non c'è qualcosa di così misterioso alle spalle, non credo che possa accadere quello che lei dice, perché quest'anno fino ad ora non si è ancora espresso, ma lei non dimentichi che il City può anche offrire tutti i quattrini che vuole, ma Buffon a fine campionato qualche punto in più lo rappresenta sempre, e se si comincia a giocare sul filo dei punti mi pare che sia una discreta differenza averlo o non averlo. William ha chiamato la provincia di Belluno, buongiorno. Dottor Garanzini, buongiorno a lei. È un po' difficile intervenire dopo la sua illuminante copertina, comunque ci provo. Ascolti, il tifoso milanista, i mali del Milan sinceramente non sono quelli, ci non nascono dalla partita di ieri sera, ma è già parecchio tempo che il Milan si sottopone più o meno con costanza a queste figure. Non che le vittorie di quest'anno con Sampdoria in casa, Catania, Chievo siano state brillanti, sono state delle vittorie, hanno portato i tre punti, però la squadra fa fatica già da tempo, e già l'anno scorso basta vedere che il Milan di quest'anno ha 8 punti in più del Milan dell'anno scorso, ragazzi, è da prendere paura. Quello che mi chiedo è, ma veramente ce lo chiediamo in tanti tifosi, da Baro ovviamente, il dottor Gagliani e il suo simpaticissimo figlio in tribuna, quando vanno a vedere le partite, cioè tutte, vedono quello che vediamo noi o vedono qualcos'altro? Perché una difesa impresentabile come quella di ieri, ma è impresentabile già anagraficamente, non è una questione di forma, perché un Maldini è Maldini, ma 40 anni, a 40 anni deceglie su Zambrotta, e Zambrotta ne ha molti meno, abbiamo visto cosa ha fatto, cioè il Milan è stato tagliato, William, a fette. William, mi scusi, ma siamo già un po' in ritardo per il traffico. Vedono benissimo quello che accade e poi mediano rispetto a una politica societaria ben precisa, rispetto alle 50.000 magliette, almeno così ci è stato detto, che fa vendere Ronaldinho, eccetera, eccetera. Poi bisogna mettersi d'accordo, se uno preferisce vendere magliette o preferisce magari comprare dei ragazzi che possono maturare. Queste sono scelte che riguardano la società. Guardi che Maldini, mi informa Loris da Verona, non è mai stato campione del mondo di club, intendeva l'ascoltatore precedente, e questo credo proprio che lo sia stato. Stefano da Bologna domanda: lei parlava qualche giorno fa di una scarsità preoccupante di gol, come interpreta l'esploit di ieri? Stefano, col fatto che in Italia non si sa più difendere, molto semplicemente, dei 41 gol, per carità, il gol è il benvenuto. Perché è il momento più spettacolare, insomma, è inutile che stiamo a fare la storia di quello che rappresenta il gol, però dei 41 di questi due giorni, io credo che giocando con queste difese arriva Boninsegna, altro che i gol che hanno segnato nella carriera loro, e tanti altri, i Pulic, i Savoldi, e Bettega, altro che quelli che hanno segnato, ne segnerebbero veramente a caterve. Raffaele, provincia di Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. Volevo intervenire a proposito di quello che lei ha detto in copertina. Mi trovo molto spesso d'accordo con lei, ma oggi sono d'accordo per metà, nel senso che i trionfalismi, a mio avviso, sono stati eccessivi, e credo che sia anche eccessiva la sua discussione sullo scarso valore dell'avversario. Non credo che il Milan abbia uno scarso valore, credo piuttosto in quello che lei più volte dice, una campagna di sbagliata, un'anagrafica ormai troppo avanzata, e soprattutto una serie di coincidenze, ovvero ieri l'assenza contemporanea di uomini chiave come Gattuso, Kakà e anche il rientro di Pirlo, che a mio avviso un Pirlo in queste condizioni può far solo del male al Milan, perché Pirlo, quando non in forma, ha difficoltà oggettive, e credo si vede, credo che sono un parere suo su quello che con questa mia opinione di Pirlo, e anche un Ambrosini che non è assolutamente in forma, quindi... Sì, ma a questo non è mica finita. Aggiunga la serata disastrosa di Ankulovski, aggiunga quella certamente non brillante di Calazze, insomma, ci metta tutto insieme. Da qui io ricavo che la vittoria della Juventus è certamente non solo legittima, non solo meritata, anche abbastanza brillante, ma non autorizza troppi trionfalismi per lo scarso valore dell'avversario. Ci siamo arrivati, no? Allo scarso valore contingente dell'avversario. Poi è ovvio che se nel giro di sei giorni perdi o sette giorni perdi prima Gattuso per squalifica, e poi si aggiunge questo incidente di rara gravità, poi il giovedì ti salta Kakà e non hai nemmeno il ricambio di Flamini, che è uno di quelli che avrebbero potuto comunque far legna, come si dice, in mezzo al campo, no? unendo ad un po' di qualità, unendo anche un minimo di decenza fisica, che non appartiene più appunto agli Emerson e a quegli altri. Però sullo sfondo rimane molto altro, ecco, rimangono delle scelte che poi, insomma, un giorno trovano delle loro giustificazioni, anzi dei loro risultati. Piuttosto è già stato operato Gattuso proprio stamattina ad Anversa dal professor Martens, e la prognosi è intorno ai sei mesi. Questo è il periodo di recupero previsto dal professore. Intorno ai sei mesi sono stati ricostruiti i legamenti crociati del ginocchio destro, intervento perfettamente riuscito, quella è la prognosi, e quindi, cioè, diciamo che è molto improbabile che Gattuso riesca ancora a rientrare nella stagione in corso, anche se appunto conoscendo non è poi nemmeno da escludere. Dalla provincia di Bergamo ha chiamato Valentino, buongiorno. Grazie, buona giornata. Ieri sera, guardando l'OPV, ho sentito degli insulti tra cronisti. Allora dicono che il derby d'Italia è stato inventato nel 1932. Uno sosteneva invece che era stato inventato da Brera. Secondo lei, che è uno che è stato molto vicino a Brera, chi l'ha inventato? Questa è una parte. La seconda parte, io credo che Ibrahimovic all'Inter conta così. E se dovrebbero farsi male degli altri giocatori delle altre squadre, non so come vanno a finire, perché anche le altre squadre non è che facciano quel gran calcio superiore all'Inter, superiore alle altre squadre. Grazie, ascolto radio. Grazie a lei, Valentino. Non so chi si sia capigliato, non ho la minima idea, non so neanche perché ci si debba, non dico accapigliare, ma anche semplicemente riscaldare per queste questioni di lana caprina. Derby d'Italia è un termine che io sappia che Brera coniò per designare, per ribattezzare le sfide tra Inter e Juventus. Qualcuno invece, mi pare di aver letto nei giorni scorsi, vorrebbe attribuirla alle sfide tra Juventus e Milan. Beh, insomma, abbiamo un'oretta scarsa con parecchie pubblicità, le pare che possiamo, cioè, giochiamocela. Guardiamo invece questo. Beppe da Bergamo invece scrive: allora, l'età, Chiellini 22, Marchisio 22, Sissoko 22, De Ceglie 20, Giovinco 21, più tutti gli altri che sono in prestito. Non c'è dubbio, conclude Beppe, il futuro è bianconero. Probabile, no, non sicuro, ma probabile. Di sicuro è già abbastanza bianconero il presente da questo punto di vista, anzi molto. E questo mi sembra un dato. Nel raffronto tra Juventus e Milan, che secondo me ieri sera è stato davvero non significativo, di più, è stato davvero non mi viene nemmeno la parola, è stato davvero molto forte, no? questo contrasto tra la gioventù da una parte, con tutte le sue esuberanze e anche ogni tanto con qualche ingenuità, intendiamoci, rispetto all'impotenza della vecchiaia. Mi è sembrato particolarmente stridente questo contrasto, particolarmente efficace nella sua rappresentazione del campo di ieri sera. Poi stamattina ho anche letto che il Milan Primavera è ultimo in classifica. E allora, se, pur avendo, mi pare, due partite da recuperare, quindi probabilmente non sarà davvero ultimo, se il Milan Primavera, che è, insomma, a questo Milan è nato anche e forse soprattutto grazie a una covata eccellente di giovani, che tra l'altro l'attuale gestione si trovò da quella precedente in buonissima parte. Ma insomma, al di là delle attribuzioni, io credo che quest'altro che ho appena detto sia un altro dato su cui riflettere. Cesare, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Chiamavo perché ascoltavo un po' i commenti e soprattutto ho letto un po' i giornali. Noi ieri sera ci siamo trovati un gruppo di amici, come facciamo sempre, una quindicina di persone, tra juventini e milanisti. Ci siamo divisi in due gruppi, uno guardava sul satellite e l'altro sul digitale terrestre. La cronaca, a fine del primo tempo, ci siamo invertiti. Allora, fino all'uscita per l'espulsione di Zambrotta, tutti erano concordi a fine della partita che si vedeva un gran Milan, e chi meritava perlomeno di pareggiare era il Milan e non la Juventus, e che poi dopo l'uscita di Zambrotta chiaramente sono cambiati gli equilibri, Ancelotti ha perso un po' di tempo per fare le sostituzioni. No, sicuramente fino a quel momento tutti erano concordi che il Milan non aveva demeritato, anzi un buon Milan, anche a commento sia di Sky che di Mediaset. È per questa ragione, no, ma io in parte condivido, ed è per questo che trovo eccessivi trionfalismi sulla prestazione della Juventus. Ma non volevo interromperla, Cesare, Cioè volevo interromperla, ma non volevo troncare il suo intervento. Mi dispiace, non vorrei che se la fosse presa, in questo caso sarebbe un po' per malosetto. Proveremo a richiamarla, se mai. Non volevo assolutamente troccare quello che stava dicendo, che era molto interessante. Mi premeva soltanto far notare che quello che lei dice in parte o in buona parte è vero. Però, ripeto, questo va a disdoro, secondo me, della Juventus, perché a parte quel primo quarto d'ora, 20 minuti, non è che non fossero già presenti tutte le lacune del Milan. Eravamo comunque sul 3-1 per la Juventus a fine primo tempo, quindi insomma ci voleva comunque un minimo di coraggio a sostenere che il Milan stava meritando, eccetera eccetera. Dopodiché non c'è stato qualche errore arbitrale, qualche ingiustizia, qualcosa che ha portato all'espulsione di Zambrotta. C'è che Zambrotta, che secondo me è di tutti gli acquisti del Milan di quest'anno quello veramente più incomprensibile, ma questo da luglio, non da adesso, credo che l'espulsione di Zambrotta sia stata talmente sacrosanta, talmente inevitabile e oltretutto leggibile di lontano, anche per quante volte era già stato tagliato fuori su quella fascia, aveva tentato recuperi molto rischiosi, che non mi sembrava poi così sorprendente, ecco. Da Verona, Stefano. Dottor Garanzini, Garanzini, buonasera. Io volevo rapidissimamente la sua opinione su due episodi che riguardano Vucinic e quanto da lei accennato prima. Allora, io stamattina ho ascoltato il commento di Paolo Casarin in una trasmissione della RAI, sì, nella quale sosteneva che è sufficiente togliersi un qualsiasi capo della divisa per essere ammoniti, quindi non è che la furbata dell'essersi tolto i pantaloncini anziché la maglietta, cioè Vucinic per quest'atto è stato comunque ammonito, prima situazione. Seconda situazione, è stato stigmatizzato molto il gesto che avrebbe, io non l'ho visto ma credo a quello che si dice, che avrebbe subito dopo aver segnato avrebbe fatto, sì, un gesto che è stato giudicato riprovevole. Allora, al di là della soggettività di giudizio su questi gesti, io posso dire che trovo altrettanto riprovevole il gesto che fa Del Piero, che francamente mi provoca un disagio. D'altra parte questi gesti... Ma qual è il gesto del Piero, mi scusi? Qual è il gesto del Piero? Il gesto del Piero qual è? Quello della lingua? Esatto. Francamente a me mi fa schifo. Non so a lei, ma a me quel gesto... Non lo trovo, non l'ho mai trovato elegante. Proprio, ecco, non mi fa schifo, come per seguire la sua espressione, però certamente non l'ho mai trovato elegante. Non trovo elegantissimo nemmeno soffermarsi su questi dettagli abbastanza pietosi, perché poi anche i grandi campioni hanno le loro debolezze, però un paragone tra l'uno e l'altro mi lasci dire che è nettamente improponibile, nel senso che quello di Del Piero può essere un gesto magari non di finissimo gusto, quello di Vucinic è un gesto che insomma, su cui non mi attarderei e che si qualifica da sé, sicché il suo paragone, me lo lasci dire proprio, non sta né in cielo né in terra, a parer mio. È stato Kakà stesso a smentire che possa esserci qualche problema di ernia inguinale che possa portare persino a un'operazione. No, dice Kakà, lo ha appena dichiarato, gli esami di stamattina hanno avuto esito negativo, è solo un'infiammazione abbastanza forte che spero finisca domani, ma potrebbe durare anche per 2 o 3 mesi, e questo non è certamente un dato rassicurante. Dopodiché c'è una notizia tra il curioso, non dico drammatico, ma insomma certamente non è un bel episodio questo, e si tratta di un assalto ieri sera, stanotte a Cologno Monzese, agli studi di Controcampo, gli studi di Mediaset in cui stava andando in onda Controcampo. Alle 23.45, leggo da un'agenzia appena uscita, un centinaio di tifosi milanisti ha fatto irruzione nei teatri di posa ed è entrato nello studio da cui stava andando in onda il programma, scandendo cori e slogan per protestare contro il prezzo troppo alto dei biglietti allo stadio. Trasmissione interrotta con un blocco pubblicitario, i tifosi sono scemati all'esterno mentre stavano arrivando i carabinieri avvertiti dalla sorveglianza. Una ventina di ultra che non ha fatto in tempo a salire sulle auto su cui erano arrivati hanno cominciato a lanciare contro i militari accendini, petardi e sassi. Un carabiniere è stato leggermente ferito, 4 teppisti sono stati bloccati ed è stato arrestato uno di loro, un 24enne di San Fermo della Battaglia, provincia di Como, mentre gli altri 3 sono stati denunciati per l'invasione degli studi. Parliamo un po' delle emozioni della famiglia Conti, suggerisce Paolo da Spoleto. Non è un brutto argomento, io spero che da qui a fine... Voi sapete che lunedì gli argomenti ve li lascio suggerire in gran parte. Mi piacerebbe che arrivassimo a questo capitolo, vediamo se qualcuno gli va bene, se no tra un po' provvedo di persona. Da Milano, Franco, buongiorno. Sì, buongiorno, purtroppo mi dispiace ma voglio essere monotematico in quanto milanista deluso. Volevo fare un riaggancio temporale. Non le sembra di vedere giocare il Milan di Ancelotti anziché come il suo... in mente Isper Sacchi, come l'idom di un po' di anni fa, il ticket TikTok, se lo ricorda? Un pochino sì, perché si gioca troppo per linee orizzontali anziché come ha insegnato Sacchi, aggredire lo spazio e giocare per linee verticali. Cioè, io non vorrei che povero Ancelotti, per l'amor di Dio, non glielo auguro, finisse come l'idom che si ricorda fu cacciato furor di popolo proprio poi alla fine. Lì non fu cacciato furor di popolo alla fine di una carriera e con un carisma che resero lieve, no? questa sua disavventura, peraltro in tarda età e e a fine carriera. Non, vedrai di lasciare la memoria di Lidom dove sta. Era un'altra squadra, c'era un altro valore tecnico che era inferiore a quello di oggi e c'erano altre risorse, insomma, altre possibilità di gran lunga inferiori. Quindi il paragone per una parte andava, per un'altra un po' meno, insomma, secondo me. Provincia di Macerata, Alberto. Buongiorno, dottore. Buongiorno a lei. Volevo intervenire in riferimento alla partita ieri sera di Juventus-Milan. Sì. Credo che la chiave di volta da tifoso juventino, lo dico, sia stata l'espulsione di Zambrotta, indubbiamente, perché la partita da lì ha preso la piega che poi... il 4-2. E oggi, dando un'occhiata alle varie riviste sportive, leggendo, come lei diceva, dei facili trionfismi, credo che la vera anti-Inter sia solo l'Inter, in quanto che solo l'Inter possa perdere il campionato con la forza. Alberto, io qualche dubbio ce l'ho, perché insomma mancano tre giornate ancora alla fine del girone d'andata, quindi siamo ancora, non dico lontani, ma non vicinissimi alla metà del campionato, quindi io non sono poi così convinto che sia solo l'Inter che la può perdere, che l'Inter sia la più strutturata e la più forte fisicamente, tecnicamente, cioè miscelando tutti i cosi, vabbè, è inutile che stiamo a ripetere queste cose che sappiamo a memoria, però ripeto, dopo 16 giornate e avendo le 22 da giocare, con una squadra così competitiva dietro, così battagliera e così convinta, io credo che ci si possa giocare ancora. E come? Da Como ha chiamato Marco, buongiorno. Dica. Io volevo fare un accenno sulla Juventus, i giovani di cui si parla molto. Da quello che, magari posso sbagliare, ma da quello che ricordo io, sono tutti acquisti o comunque giovani formati nell'era Moggi. Certo. E quindi volevo sapere se, al di là di quello che ha fatto Moggi, criticabilissimo, del quale se ne è parlato tanto, però forse non era così sprovveduto quest'uomo, perché poi alla fine le risulta che qualcuno abbia mai detto che Moggi non capiva di calcio? No, perché poi è stato demonizzato e quindi è stato buttato tutto in mare quello che ha fatto, ma credo che sia ancora uno dei pochi uomini di calcio, perché guardandoci in giro, più che spendere soldi per comprare stranieri, e spesso anche... Ma non c'è dubbio, ma dal punto di vista della... Io non so, poi io non rispondo per le mie valutazioni, non rispondo certamente di quelle degli altri, e quindi non posso parlare di demonizzazioni o meno. La verità è semplicissima, della sua generazione, che tra l'altro ha operato per lunghissimo tempo, Moggi era certamente in chi faceva mercato, in chi cercava giovani, in chi costruiva le squadre, Moggi era certamente il numero uno. Era purtroppo anche il numero uno di Farabutti, ma questa non è una demonizzazione, questa è semplicemente la verità, e credo che, così come i suoi demeriti sono stati, lei dice, enfatizzati al punto da demonizzarlo, i suoi meriti non vadano nascosti. Queste covate sono ancora frutto delle sue ricerche. Poi magari si potrebbe, indagando per bene, non indagando perché non ne vale la pena, si potrebbe capire fino a che punto arrivava il controllo del mercato lecito e dove cominciava invece un controllo di tipo diverso. Ma che questi ragazzi siano stati scovati da lui e dai suoi osservatori non c'è nessun dubbio. L'agenzia, l'ANSA, i tifosi meno giovani di Roma, Spal, Catania e Napoli ricorderanno Memo Prenna, una mezzala che aveva 78 anni e che è morto la notte scorsa a Catania, dove era ricoverato. Notizia appena arrivata. Fabrizio da Belluno, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo sapere, sì, cosa ne pensava lei dell'incapacità tattica di Ronaldinho, che si è fossilizzato a sinistra, e dell'incapacità di Pato di capire gli ordini Ancelotti, perché ne sono rimasto parecchio sconvolto. Giocatori a questo livello che non riescono a cambiare la partita fossilizzandosi su una posizione sola. Grazie. Grazie a lei, Fabrizio. In effetti, guardi, Pato ieri sera si è preso anche a un certo punto in un discreto cazziatone da Maldini, no? Perché oltre agli urlacci di Ancelotti se ne è preso anche uno serio da Maldini, e lo si è visto palesemente, perché nemmeno veniva incontro al pallone come un ragazzo di 20 anni dovrebbe venire, ed era lì che era particolarmente stridente il contrasto non solo tra i giovani della Juve e i vecchi del Milan, ma anche tra i giovani della Juve e i giovani del Milan, nel caso di Pato, a cui evidentemente qualcuno nel frattempo ha fatto credere che è già un fenomeno e che forse già da fenomeno era arrivato. Questo in effetti è, credo, abbastanza triste. Ronaldinho in quella posizione credo sia l'unica in cui può un pochino giocare. Non era partito male, ha messo l'assist del gol, è stato magnifico, però io credo che con quello che Ronaldinho è costato al Milan, ma soprattutto con tutto quello che è costato in termini di nuovi equilibri sul campo, ne ha parlato la settimana scorsa un certo Kakà, credo non per caso, io credo che un pallone a partita sia veramente un tantino poco. E già che ci siamo, non so se lei o qualcun altro ha avuto modo sabato sera di vedere Barcellona-Real. Allora, al di là della qualità eccelsa della partita in un senso e nell'altro, al di là del fatto che poi se alla fine Real avesse pareggiato non ci sarebbe stato nulla che non andava, rimane il fatto che la velocità a cui adesso si esprime il Barcellona, non avendo più un freno a mano piantato sul centro-sinistra che si chiamava Ronaldinho, credo che qualcosa voglia pur dire da un punto di vista della dinamica di squadra, non certo delle qualità individuali, che però bisogna fermarsi come squadra per metterle, no, per permettere che trovino spazio e che trovino risalto. Un discorso magari un po' complicato, però un discorso tecnico che, ripeto, Kakà per primo ha fatto. Luca, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, volevo fare una precisazione sulla politica societaria del Milan, alla quale stanno tutti dando contro. È chiaro che ogni tifoso vuole che gli si comprino i giovani per il futuro e i grandi nomi, i Buffon, gli Ibrahimovic, eccetera. È altrettanto chiaro che la società non può farlo. Per cui qui parliamo di una dirigenza che ha fatto vincere tantissimo, che ha preso grandi acquisti come Seedorf e Pirlo scalati dall'Inter, o buoni giovani come Pato, adesso Thiago Silva, Senderos, e ha preso bidoni come Rivaldo, Redondo, Vieri, Ronaldo, dei vecchietti di recupero, Emerson lo metterei tra questi. Però mi sembra che nel complesso sia una dirigenza che fa il suo dovere, tenuto conto che non ci sono miliardi per tutti ogni singolo anno, tranne Moratti. Gli altri hanno tutti dei limiti economici. Sì, non creda che Moratti è indubbiamente paperone, non creda che il dottor Galliani, come è stato chiamato prima, abbia firmato tanti bilanci in nero in questi anni, dall'86 in poi, ne ha firmato uno, mi risulta, gli altri erano tutti in rosso e anche per cifre abbastanza significative, quindi non è che il Milan sta facendo o ha mai fatto la politica della lesina. Esagerumanen, come diciamo dalle mie parti piemontesi. Torniamo in onda con il consueto ripasso di storia. Che cosa è successo il 15 dicembre di chissà che anno, ce lo dice Nicola Filippone. Sembra ieri. 15 dicembre 1995. La Corte Europea di Giustizia emette una sentenza destinata a rivoluzionare il mondo del calcio. Il giocatore professionista ha diritto alla libera circolazione nell'ambito dei paesi comunitari. Cadono così i limiti alla presenza di stranieri fissati dalle federazioni nazionali. Inoltre la Corte introduce lo svincolo del calciatore, che alla scadenza del contratto diventa libero di trovarsi una squadra senza che la sua vecchia società riceva alcun indennizzo. La decisione della Corte europea è comunemente conosciuta come sentenza Bosman, merito di Jean-Marc Bosman, il giocatore che portò davanti alla giustizia europea la federazione belga e il Liegi. È una data epocale questa, effettivamente. Torniamo agli amici già collegati. Fabrizio da Verona, buongiorno. Sì, salve, buongiorno signor Garanzini. Senta, io volevo parlare di ieri del gol del 3-2 dell'Inter, che sì, a tutti è sembrato regolare, ma a me da sotto lì, sotto la curva, mi sembra che abbia travolto un po' tutto. Non so cosa ne pensava lei, e magari avrebbe fatto comunque il 3-2 con quell'altro splendido gol di Ibrahimovic, però vederlo dal vivo sembrava che avesse travolto tutto, ecco. Grazie, vi ascolto per radio. No Fabrizio, non sono assolutamente d'accordo con lei. Ibrahimovic ha staccato in verticale, non si è assolutamente appoggiato, non ha preso slancio appoggiandosi sull'avversario, è l'avversario che non è saltato, che non è riuscito ad alzarsi, ma non perché l'altro lo tenesse giù. È il difensore che non si è alzato, l'attaccante si è alzato troppo, poi a un certo punto alla fine è ovvio che dopo aver colpito sta perdendo l'equilibrio in avanti, perché l'altro, non dico gli fa ponte, ma quasi involontariamente, e quindi ma non c'è assolutamente traccia di irregolarità. Una faccia immobile di Bruno Conti, scrive Paolo da Pordenone, al gol del figlio. Ma un Eurogol di quel tipo, di un figlio, non valeva almeno un applauso? Ma Paolo, è stata la sequenza più bella della domenica, secondo me, è quella su cui si potrebbe discutere più a lungo, perché c'è dentro la tecnica, c'è dentro la passione, c'è dentro il sentimento, ci sono dentro i rapporti familiari. In effetti ha stupito molto anche me vedere Bruno così glaciale, no? in quell'istante. Tra l'altro non sapeva minimamente di essere inquadrato, perché l'hanno pescato a tradimento, erano pronti. Ed è vero, questo significa che Bruno è più romanista che padre, quando si parla di calcio, evidentemente. E quindi in lui ha prevalso l'uomo Roma. Insomma, Bruno Conti è nato nelle giovanili della Roma e adesso è il dirigente chiave della società. Nel frattempo è stato il grande campione che sappiamo. Ha due figli, uno gioca nel Cagliari per l'appunto, e secondo me è un signor giocatore con la G maiuscola o con la S maiuscola a piacere. Fratello Andrea gioca nel Bellinzona ed è un altro bel giocatore nella Serie A svizzera. E il gol di ieri è assolutamente una gemma, le ripeto, evidentemente per Bruno vale così. A fine partita poi, quando finito lo spogliarello di Vucinic, si è visto che Conti era andato a sua volta a riceverlo al ritorno ed era corso fin là ad abbracciarlo, poi evidentemente non ha più lo scatolo una volta e quindi è arrivato un po' in ritardo. Tutto questo Brunetto l'ha raccontato, insomma l'ha rivissuto ieri sera anche alla Domenica Sportiva. Peccato che nessuno gli abbia posto la domanda che secondo me si poteva anche fare, e cioè, finito tutti i trionfalismi, le cose eccetera, visto che tu sei anche un dirigente della Roma, la Roma prenderà provvedimenti nei confronti di questo bifolco di Vucinic oppure questa cosa passerà inosservata? Così, tanto per dire, no? per evitare che poi certe trasmissioni siano soltanto dei teatrini. Alessandro da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Devo premettere che io appartengo alla sponda opposta e quindi sono nero azzurro. La testimonianza che volevo lasciare era questa. Io sono felicemente contento per i successi dell'Inter, ma devo anche lanciare un messaggio ai tifosi milanisti, perché il Milan è una squadra che in 20 anni è riuscita a costruire degli incredibili successi. E quindi tutti i tifosi milanisti non devono mai dimenticarsi di questo. Inoltre, credo, guardando le persone che appartengono alla dirigenza, ma non solo, anche ai calciatori, parlo di Kakà, parlo di Pato, insomma tutte bravissime persone con la testa sulle spalle e che sono sicuro che prima o poi riusciranno a costruire nuovamente qualcosa. Bisogna solo un pochino dargli tempo, credere in un progetto. Forse l'unica critica, al di là del gioco che non entro nel merito perché non sono un tecnico, che andrebbe fatta, se di critica si può parlare, alla società, è di dare un pochino più di visibilità alle azioni che oggi stanno facendo per poter ricostruire. Insomma, la Juve ha messo in campo un grande calcio e dei grandi giovani, oso dire, cosa non facile da trovare oggi nel mondo del calcio, soprattutto se penso all'Inter, che ha grandissimi talenti ma pochi giovani che arrivano dall'Italia. E quindi dico che siccome le squadre e le aziende in generale sono fatte dalle persone, io credo che il Milan debba semplicemente così. Alessandro, la ringrazio del suo intervento anche un po' alluvionale, ispirato certamente al fair play. Mancava solo che dicesse che bisogna aspettare che i giocatori del Milan maturino mediamente e poi l'avevamo dette tutte, però insomma, una parte di verità è quello che ha detto. C'era Alberto, Modena, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Velocissimo. velocissimamente, grazie per avermi chiamato. E riguardo Ancelotti, io sono un tifoso del Milan, secondo me, siccome così faccio il dirigente di una società sportiva di eccellenza e un po' di calcio ne mastico andando a vedere spesso gli allenamenti, io credo che purtroppo, e nessuno lo dice, ogni tanto si sfiora il problema, tra i tanti problemi che ci sono al Milan, campagne acquisti sbagliate, bim bum bam, il problema più grosso credo che siano gli allenamenti che in questi ultimi mesi vengono fatti a Milanello. Io ogni tanto qualcuno li ho visti, ieri sera Sacchi per TV ha un po' sfiorato molto delicatamente il problema, io credo che sia devastante la differenza di andare a vedere un allenamento dell'Inter, non so, del Bologna, di altre squadre e l'allenamento del Milan. Poi non dobbiamo, secondo me, quindi meravigliarci se quando i giocatori del Milan vengono attaccati, tipo ieri sera, tipo Palermo, tipo Torino, succede quello che è successo. Alberto, io andrei, cioè, se ci facessero ancora entrare, noi che facciamo questa dequalificata professione, ci facessero ancora entrare a seguire gli allenamenti come accadeva quando fino a non moltissimi anni fa, poi e come ho fatto per tanti anni, ricavandone gusto innanzitutto, ma credo poi anche fatalmente quel po' di competenza, no? che hai a seguire, che ricavi seguendo il lavoro, probabilmente insomma le saprei rispondere, o comunque avrei degli elementi per farlo. Così sinceramente non li ho. Posso solo immaginare che se Ancelotti ha ridotto un po' i carichi, perché allenando una squadra di vecchie glorie non può tirargli il collo come lo può tirare Ranieri a quelli della Juventus. Giambattista, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Sente, devo dire che è veramente piacevole ascoltare, io l'ascolto ogni tanto e comunque lei è veramente notevole. Grazie. Ascolti, io ho questa opinione, nel senso che si parla sempre di grandi squadre. Io sono bergamasco, per cui a me piace l'Atalanta, sono una squadra locale, sarò forse un po' campanilista, comunque mi piace. E credo che sia una delle squadre che alla fine poi c'ha il suo, è un po' provinciale, coltiva sì. Il suo vivaio, tira fuori sempre qualche cosa di Gian Battista, siamo in chiusura, le chiedo di accelerare. Avete visto il gol di Flocker ieri? Magnifico, assolutamente magnifico. Ho anche visto che qualche moviolista d'accatto ha trovato il modo di dire che era irregolare perché ha sgambettato Ocoro. Non esiste al mondo, nel senso che, ma proprio non esiste al mondo, perché se lo ha fatto volontariamente è ancora un attaccante più grande. Credo che lo abbia fatto in maniera del tutto involontaria. Flocari è sicuramente, di tutti gli attaccanti giovani, lui e Acqua Fresca sono quelli che di quelli che non giocano nelle grandi squadre, sono quelli che mi intrigano nettamente di più. La ringrazio, mi scusi per lo stop un po' brusco, ma siamo davvero a tempo scaduto. Grazie dunque a Filippo Aureggi in regia, a Flavio Suardi in redazione. Appuntamento a domani.